Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. Vedi che figo, siamo tornati ragazzi qui su Spreaker con Runtime Radio, con Ludico Forum, la puntata 7, ogni settimana una puntata per voi, sempre il venerdì se non il sabato quando le spostiamo per ragioni tecniche che possono accadere in una radio amatoriale come noi. In questo momento stiamo in doppio streaming su Spreaker e su www.runtimeradio.it. Infatti l'introduzione che avete sentito è in merito al fatto che comunque stiamo cercando di lanciare questa cosa della web radio, del fatto che potete andare semplicemente sul sito e cliccare play sul nostro player. Tra l'altro ringrazio moltissimo tanti ascoltatori perché mi hanno dato dei feedback e guardando dalle statistiche insomma alla fine ci ascolto. Io pensavo veramente che l'ascoltassi solo io però pare che insomma l'ascoltano anche altre persone, questo mi fa veramente piacere. Benvenuti a questa nuova puntata di Ludico Forum ad Alex Raccuglia. Ciao a tutti e bentornati, ma soprattutto bentornata alla mia linea internet, yeah! Brava linea internet, brava, brava linea internet. Mi pare di capire che abbiamo addirittura Carmine Puccio Console. E avete capito benissimo. Grande, quasi più in extremis di Marco Gualdi. Ciao, vi saluto. Senti Pizzi, c'è un problema, io non riesco a guardare il porno, ma sarà per il doppio streaming che stiamo facendo. Esatto. Proprio... ma che cacchio, ma io vengo apposta soltanto per guardare il porno in alta qualità. Hai ragione, tra l'altro fatemi sapere. Mi tocca fare la trasmissione. Basta. Che fatemi sapere se su Spreaker ci sentite bene, ma fateci sapere se sentite bene anche su www.runtimeradio.it. Per chi ci sente chiaramente su Spreaker, la chat di Spreaker è quella, la conoscete. Se ci sentite su runtimeradio.it, andate su telegram.me/dirette runtime. Ed è l'occasione, insomma, per poter espandere un po'. Insomma, creiamo altre chat. Che tanto alla fine, insomma, mica fanno Io male. Io sono arrivato a 451 chat, vediamo se riusciamo a arrivare a 500 entro fine anno. Esatto. Ma fine anno è troppo. Cioè. Fa aggregare. Ok, Puccio, hai detto delle cose, però non l'abbiamo sentito. Secondo me era in cthulese. Sì, no, scusate, ho avuto un down. Dicevo che purtroppo Telegram non ci fa associare le chat in gruppi di chat, se no, sai che bello. Sarebbe figo. È un chat in session, esatto. Una funzione che dovremmo implementare. Esatto, esatto. Alex, penso che partirebbe la brocca, come dicono quelli che sanno, insomma, giusto? Ma a me parte la brocca anche così, tanto per... Poi fa partire la brocca, giustamente, hai ragione. Va bene ragazzi, volete sapere di che cosa parliamo in questa puntata? Ce lo ascoltiamo con la solita intro parlata. Forza. Usa la forza, Giorgia. Usa la forza. E Giorgia la forza l'ha usata. La forza di un'idea diventata brand, che a sua volta è diventata un impero, no, non quello galattico, ma un gigantesco, incommensurabile e spropositato scrigno di magia, sogni e denaro, tanto, tantissimo denaro. Eppure si tratta della classica fiabetta di principesse, mascalzoni che le salveranno, facendole innamorare dei buonissimi e incorruttibili cavalieri, paladini della giustizia e dell'amore universale. Cosa fa quindi di Guerre Stellari, perché questo è il suo vero nome, giusto? Un'opera senza tempo né confini, che passa dalla pellicola alla carta, dalla tavola ai soprammobili, dai televisori ai joystick, in un'inarrestabile conquista del tutto. Scopriamoli in questo episodio di Ludico Forum dedicato a Star Wars... scusate, Guerre Stellari. Ok, io la domanda la dovrei fare subito ad Alex Raccuglia, però la faccio a Marco Gualdi. Marco Gualdi, cosa fa di Guerre Stellari tutto questo di cui... Ci sto pensando da anni. Non è la gnugna. Non lo sai. Perché sai, non è quella, è sempre stata marginale. Forse più Star Crash c'è sta la gnugna. Sì, lì c'è la Star. Cioè, forse le spade laser, questa col, il mistero della forza. Che cazzo è la forza? Fino a che non ce l'ha spiegato nessuno. Lucas con il prequel, che forse era meglio che non ce lo spiegava. Però c'è tante cose, capito, che poi alla fine tu non capisci, non si sa in realtà. Chissà perché Guerre Guerra Stellare è diventato un cult movie malgrado avesse tutte le carte per diventare un flop galattico? Io guarda, veramente me lo sono sempre domandato. Intanto salutiamo in chat tutte le persone che sono accorse perlomeno per quanto riguarda la chat di Spreaker, quindi Marble Madness, Angela si parla di Guerre Stellari, non so se ti interesserà, e un Ryu, sei dispensata insomma, Ryu. Per la serie, cioè, abbiamo pochi ascoltatori, mandiamoli pure via quelli che ci sono. Assolutamente. Bravo, perché noi vogliamo farcelo tra di noi, quello è un anismo proprio allo stato puro. Su Spreaker Angela mi risponde che su Spreaker funziona, una domanda che ho fatto 3 minuti fa, quindi forse c'è un po' di lag, però va bene. L'importante è che ci sentite, insomma, quindi c'è anche un ascoltatore nuovo, mi fa molto piacere. Il famoso lag maggiore, quando ce n'è tanto. Lag maggiore, esatto. Il lag di Como pure un po'. Anche di Garda. Di Garda, ma sì, dai, diciamo. Quelli vicino, il lag vicino. Alex, qui da noi che c'è il lag... Lag di Bracciana, è vero, c'hai ragione. Tra l'altro è stradivato un lago ultimamente qui da sta zona, quindi... sono sempre notizie belle. Comunque Alex, entriamo nel vivo, dai. Allora parliamo di Guerre Stellari, anche perché a noi alle 7:15 ci arriva il cinese, quindi perché il cinese accetta di portare le cose a casa, però deve venire presto, perché a una certa se ne va a fanculo, deve chiude lui senza considerare il fatto che tu ordini 25 e lui ti porta 30. Noi praticamente facciamo le trasmissioni radio un quarto di cinese alla volta. Esatto. È così, viviamo le nostre radio un quarto di cinese alla volta. Esatto. Alex, allora Guerre Stellari, cioè inutile presentare Guerre Stellari, no? Noi possiamo parlare personalmente, no? Soprattutto te, io ho fatto sta puntata perché ti voglio bene e ho pensato a te. Volevo fare un regalo ad Alex e ho fatto la puntata su Guerre Stellari, che è una cosa di cui lui ha sempre parlato visceralmente, quindi c'è un rapporto sentimentale, no? Al di là del discorso tecnico, artistico, cinematografico, i videogiochi, quello che è comunque una cosa sua personale. Ti apro una parentesi, Alex, con chi è che vai a vedere i film di Guerre Stellari quando escono? Con la mamma. Con mia madre. Ecco, esatto. Quindi esatto. Se non è motivo quello. Bravo, esatto. Vai. Di rituale, cioè noi andiamo alla prima all'Arcade, di solito la mattina presto. Porco! Esatto. Ed è bellissimo, è una cosa. Allora ricordiamo che ad Alex ha avuto dei problemi di linea internet che oggi gli hanno risolto, fino adesso però, fino a questo momento. Non so se è andato, se sei andato via così. Dicevo che è una sorta di rituale, andiamo con mia mamma e l'ultimo film, episodio 9, l'abbiamo visto ben 2 volte. Appunto, ci piaceva l'idea di andare di svagarci un pochettino, perché Guerre Stellari è stato il primo film non cartone animato che io ho visto al cinema per intero, senza voler uscire, cioè avevo 4 anni, è stato tutto, cioè da allora credo che mi abbia segnato. E rispondendo alla domanda perché è diventato questa cosa qui, io credo che sia per un sacco di ragioni, ma la vera ragione è che visivamente è stato qualcosa di violentemente innovativo, un po' come Matrix è stato violentemente innovativo dal punto di vista visivo. Tutti dicono la storia di qua e di là, però se tu pensi a Matrix ti viene in mente un tizio con un cappotto improbabile che si piega 90 gradi all'indietro per evitare le pallottole in slow motion. Ecco, Guerre Stellari era l'assalto alla morte nera nello spazio, cioè lo spazio è sempre stato visto come una cosa placida, tranquilla, oppure un po' cazzona, un po' alla Star Trek, parlo della serie classica, e in questo caso era diventato un film d'azione nuovo. Star Wars, Guerre Stellari è stato il primo blockbuster. Io credo che questo sia stato il motivo per cui è rimasto così tanto, perché è stato una cosa veramente, un passaggio epocale, un po' come il rock and roll negli anni 50, nel senso, i vecchi non lo capivano, sì, ma era una roba dei giovani, un po' come la trap oggi, noi non lo capiamo, però è una roba dei giovani. Ecco, Guerre Stellari era la roba per i giovani ed era un modo di fare cinema completamente innovativo, e questo secondo me a George Lucas non gliel'abbiamo mai detto abbastanza. E Puccio, rispondi tu anche, secondo te, insomma, perché Guerre Stellari è diventato quello che è diventato, e soprattutto cosa ha rappresentato per te, mentre che Alex controlla nelle sue impostazioni se dovesse esserci il push to talk, perché è probabile, io ce l'ho avuto la prima volta. Esatto, infatti. Cioè, ho bestemmiato. E vabbè, Discord, ragazzi, si sente meglio. Push to bestemmia, ragazzi. Si sente meglio, però bisogna domesticarlo un pochino. È disattivato. Push to swear, esatto. Ok, è disattivato. Allora c'è tipo un noise gate, qualcosa che ti taglia le frasi alla fine. Una roba per la mento a destra che ti chiedi delle frasi. No, sapete, voi in quasi tutti i campi, no? C'è un prima, un dopo qualcosa, no? Nei fumetti c'è il prima, il dopo Watchmen, il prima, il dopo Miracle Man, il prima, il dopo Dark Knight. Nella cinematografia di fantascienza c'è il prima e il dopo Guerre Stellari. Non era il primo film di fantascienza, non era il primo film di fantascienza episodi che usciva, non era il primo in tantissime cose, era il primo a fare determinati effetti speciali, che erano quelli che Lucas si era sostanzialmente inventato e che poi ha trasformato in industria, prima con Lucasfilm, poi per la parte audio con Skywalker Sound, eccetera eccetera. Per me ha significato tantissimo dal momento in cui l'ho visto da bambino, perché in un certo qual modo univa due cose che io adoravo, cioè mi piaceva tantissimo la fantascienza, però mi piaceva anche il connotato mistico di molte cose, tipo a me piacevano tantissimo i Cavalieri della Tavola Rotonda, tutta quella roba lì. E il mischione che riusciva a fare Lucas di quei due elementi, quello mistico e quello fantascientifico, io all'epoca lo trovai perfetto, adorabile, e mi ci sono innamorato. È una passione che mi è costata innanzitutto tantissimi soldi, perché io poi sono partito per la tangente, non tanto per la parte gadget, quindi che vi devo dire, pupazzetti, le action figure piuttosto che i modellini delle astronavi, eccetera eccetera. Io sono impazzito per tutta quella parte che poi è stata chiamata per tanto tempo universo espanso, cioè i fumetti, i libri, la saggistica legata al franchise, che ha attraversato, insomma, alterne fortune, che adesso è stata in un certo senso rimaneggiata, un po' piallata dopo il passaggio a Disney, grazie a Dio anche per certi versi, perché mo non voglio anticipare argomenti che magari tocchiamo più avanti, però, cioè, signori, moltissima roba dell'universo espanso era e resta spazzatura, al di là dell'affetto che si può provare, del ricordo addolcito dalle lenti rosa dell'infanzia, quello che volete, però moltissima roba era veramente orrenda. Mentre invece vi devo dire, mediamente, sempre per non anticipare niente, la roba uscita di recente, dopo la nascita di quello che ora si chiama Nuovo Canone, è mediamente di livello tra il sufficiente e il molto buono. Addirittura? Sì. Ci sono anche dei picchi notevoli, ma come c'erano stati anche per il vecchio universo espanso. Però, diciamo, mentre l'universo espanso ha tolto qualche picco verso l'alto, era mediamente mediocre, tolto qualche romanzo, tolto qualche fumetto scritto meglio, devo dire invece i prodotti nuovi sono i fumetti disegnati e scritti un po' meglio, i romanzi sono stati dati spesso anche autori famosi per altro, non ghostwriter come possono essere, che so, Dan Abnett, che ha scritto romanzi di qualsiasi saga fantasy e fantascientifica come riempimento quando gli autori principali non avevano voglia di andare avanti. Ma per esempio c'è un bel volume di Star Wars che è stato affidato a Ken Liu, che è un esponente della fantascienza sino-americana moderna, che ha vinto premi d'autore, neanche quelli mainstream, e che però si è prestato a Guerre Stellari perché comunque apprezza il genere, che è una cosa che nel vecchio universo espanso vedere autori mediamente famosi, mediamente affermati, dedicarsi ai romanzi di Guerre Stellari mai sia, non li avrebbero toccati neanche con un bastone lungo 3 metri, anche perché in realtà le vicende, la continuity era diventata così incasinata, così ingestibile, che potevano scrivere qualsiasi cosa e essere smentiti 3 minuti dopo. È un autore, generalmente queste cose non fanno molto piacere. Bene, bene, bene. Non stavo tanto rispondendo in chat ad Angela, che mi ha mandato la foto del player, che siamo in diretta. Quello è il player di Spreaker, ma va benissimo lo stesso, cioè, quindi tanto siamo sempre la stessa diretta. Quando ha detto ti ha mandato la foto, io ho cominciato a tremare. No. Ho avuto brividi. Brividi. Alex, io ci ho sempre avuto la sensazione, e questo poi voglio anche il parere un po' di Marco, no? Però parto da te, perché ovviamente questa è una domanda un po' più di competenza tua, da un certo punto di vista, no? Che George Lucas, secondo me, gli è un po' esplosa sta bomba tra le mani, poi probabilmente l'ha fatta anche fruttare, o ha avuto comunque la consulenza di persone che comunque l'hanno aiutato a farla fruttare. Però quando Lucas è uscito dalla scuola di cinema, è uscito dalla scuola di cinema in senso artistico-artigianale più che registico, cioè lui non è un vero autore cinematografico. Noi lo vediamo pure in American Graffiti. American Graffiti è un grande film dal punto di vista cinematografico, visivo, ma è un film inesistente dal punto di vista narrativo. E se prendiamo Star Wars, il discorso è anche un po', cioè nel senso, alla fine è una fiabetta presa dal fantasy e riportata nello spazio, tra l'altro prendendo spunto anche da un fumetto francese già preesistente. Ecco, qual è la tua opinione su George Lucas e su questa cosa che poi gli si è costruita intorno? Allora, George Lucas fa parte di quella che era la New Hollywood alla fine dai fine anni 70, che comprendeva lui, Coppola, Spielberg, De Palma, non gli ultimi stronzi. Gente che ha inventato modi nuovi di fare il cinema e anche di fare spettacolo. Ma ti dirò, il cinema nei primi anni 70 effettivamente era diventato molto pesante, molto introspettivo, molto pensato. Lucas invece secondo me ha voluto fare il ragazzino, nel senso, io negli anni 50 mi sbrodolavo guardando lo spettacolo, the big picture, il grande show, quello che proprio ti prende, ti avvolge, e voleva fare quella roba lì. Magari la storia non è sufficientemente forte, ci sta, però è lo spettacolo, e il cinema è un'arte che racchiude in sé tante tante sottoarti differenti, e il fatto di regalarti queste grandi cose, secondo me, fa parte dello spettacolo del cinema. Ci sono film che non hanno parole, che non hanno trama, hanno soltanto visioni, e credimi, negli anni 70, 60, 70... Questa sorta di sperimentazione, sì, era fatta, per cui credo che lui l'abbia voluto, sia riuscito in un modo eccezionale dal mio punto di vista a condensare. E allora, diciamo che, perché per concludere un po' il mio pensiero, era, cioè, il fatto che comunque non che fosse meno cinema rispetto ad altro cinema, è che era cinema in modo proprio più legato al concetto della maestranza, no? Della costruzione del cinema, dell'immagine, della scenografia, e ritorno sempre a American Graffiti, no? Cioè è un film costruito nel dettaglio da una persona maniacale, che poi alla fine, pure THX stesso, no? Se tu vedi, alla fine è 1984, no? Un po' riadattato, diciamo, dove lui comunque alla fine costruisce un mondo, lui costruisce un immaginario, costruiva, anzi, perché ovviamente era una cosa che faceva allora, piuttosto che ovviamente l'aspetto strettamente narrativo, che ci sta, è una cosa bella. Arrivare poi a fare un Star Wars è stato un atto di coraggio, perché lì lui poi ha costruito veramente, hanno costruito gli effetti speciali, sono inventati, hanno rivoluzionato il cinema, cioè è stato, come abbiamo detto anche prima, no? C'è stato quello step oltre, no? In qualche maniera, che poi dopo è stato replicato in milioni di altre volte, altre cose, come è sempre successo nel cinema. Però ecco, mi domando quanto, cioè, perché secondo voi, Marco, pure per te, ma secondo te quanta genialità c'è o quanto culo c'è stato dietro a questa cosa? Io penso sempre che ci sia una grossa quantità di culo per qualsiasi cosa. Quando c'è un successo, un po' di culo ce deve stare sempre, perché magari se quel film fosse uscito 5 anni dopo non se lo sarebbe inculato quasi nessuno, per dire, magari non è così. Però secondo me è uscito al momento giusto. Allora, io dico una cosa, guardi, sono assolutamente d'accordo con te, però il culo non è niente senza la sostanza. No, ma perché la sostanza non infatti è sempre il culo, non è infatti detto, ci deve sempre stare, secondo me. Però è ovvio che se il film fa schifo, oddio, ci sono film che per il loro schifo sono diventati dei cult movie, per carità di Dio. Vabbè, però è un'altra cosa, è un altro discorso. Qui stavo parlando di un film che fino a qualche tempo fa, ora non lo so quanto siano aggiornate queste cose, era il film che ha il film e poi chiaramente il brand, il merchandising in generale, che ha incassato di più in senso assoluto nella storia del cinema. Quindi, cioè, lì, no, la componente di culo sta nel fatto che le cose magari si sono che hai azzeccato il momento giusto, esatto. Però poi dopo, perché è poi che se uno va a vedere, se uno va a vedere, molti, ci sono molti documentari, resoconti, cioè lì veramente nella costruzione del film c'è tanto culo nel farlo, perché ci sono situazioni in cui sembrava che veramente il film stesse per morire da un momento all'altro, cioè montaggi fatti tra virgolette male, che Luca stesso dice no, sta cosa fa schifo, rifacciamola, che ci si mise lui a farla, effetti speciali rifatti all'ultimo minuto, cioè veramente in quel caso c'è tanto culo, perché riuscire a raddrizzare una situazione che sembrava quasi catastrofica e farla diventare una bomba atomica, lì un po' di culo ce la vuoi, ci bravura, ma anche un po' di culo, perché comunque lì bastava un attimo per andare per diventare un disastro e addio per essere vabbè, questo vale questo Puccio e poi Alex su questa cosa della componente culo, insomma. No, componente culo sicuramente, ma lo ammette lui stesso in più di un'intervista che ti è andata di culo, che poi dietro ci fosse tutta una pianificazione, che avesse deciso che comunque non doveva essere un film ma doveva diventare un franchise che gli permettesse di vendere anche altro, perché quando poi lui costruiva il Millennium Falcon in scala per l'effetto speciale pensava come poi questo stesso oggetto poteva diventare un giocattolo da vendere trainato dal film. Da quel punto di vista voglio dire, non è una stupidata, cioè lo dice lui chiaramente che lo immaginava comunque come una macchina che poteva portare profitto al di là dello sbigliettare quando andava in sala. C'è stato molto lavoro, non tanto di marketing, che all'epoca penso insomma sia stato poco e niente. Se uno si prende la briga di andare a scavare dietro tutto il processo creativo che porta a Guerre Stellari, innanzitutto all'inizio non si chiamava neanche così, si chiamava Le Guerre Stellari, The Star Wars, e aveva una trama simile, per certi versi completamente diversa per molti altri. Di recente quella sceneggiatura originale... ci hanno fatto un book su, cioè un, ci hanno fatto un book, un fumetto, una novel, cioè, sì, in questo momento si chiama Le Guerre Stellari. Ci sono personaggi che si chiamano allo stesso modo, personaggi che non si somigliano neanche, personaggi che hanno ruoli molto molto diversi. Se lo si legge si capisce che aveva un'idea forte, molto valida, ma che dal punto di vista degli effetti speciali era 30 anni avanti rispetto a quello che si poteva fare allora. Difatti i prequel per certi versi sono anche uno sfogo in quel senso, cioè portare portare su schermo la Repubblica, portare su schermo le grandi città, c'è riuscito soltanto molti anni dopo. Penso che non si aspettasse, e lo dice lui stesso. Infatti Coruscant nei primi tre film originali non si vede mai, no? No, non viene neanche citata più di tanto, esatto. Ma in realtà poi lui molte cose si limita a farle cadere nella prima trilogia, le lascia lì e non le approfondisce né te le mostra, perché non si poteva. Del resto nel primo film, in Una Nuova Speranza, c'era una scena con Jabba in cui Jabba era un essere umano normale, vestito un po' sadomaso, ma tutto sommato un essere umano. Quando poi ha capito che non avrebbe reso l'idea che voleva rendere lui, quella scena l'ha tagliata e ha aspettato 10 anni, no, in realtà molti di meno, per mostrarlo come il lumacone gigantesco che vediamo nel Ritorno dello Jedi, semplicemente perché in quel momento non aveva le risorse per riportarlo come lo voleva riportare lui. C'è un grosso lavoro di immaginazione dietro, c'è stata anche tanta pianificazione, ma anche tantissimo culo. Però comunque Alex, diciamo la verità, noi che l'abbiamo visto nei tempi in cui andava visto, perché poi dopo sono uscite le remastered, la Deluxe Edition della Ultra Light Under Entertainment Company. Quella ce l'hai, quella dove si appiccicano le figure sopra le altre figure, insomma, vabbè, che poi sembra veramente un patchwork, insomma, alla fine. Però ecco, noi che l'abbiamo visto nel tempo in cui l'abbiamo visto, tra l'altro chi l'ha visto al cinema, chi l'ha visto in videocassetta, cioè videocassetta, ragazzi, quando tu vedevi Star Wars, scusate, Guerre Stellari in videocassetta, lo vedevi in 4/3, non vedevi neanche in CinemaScope, no? Cioè, perché c'era questa abitudine di croppare totalmente l'immagine. Ce l'aveva. Quindi infatti George Lucas stesso si incazzava di questa cosa, perché dice, cioè, voi tagliate parte dell'opera in sé, che è pensata per essere vista in una certa maniera, no? Poi voi, cioè, alla fine sei sempre tu. Alla fine con chi te incazzi. Però ecco, diciamo, Alex, noi che l'abbiamo visto, cioè, quel film, noi oggi lo possiamo guardare, insomma, con la maturità attuale, con il fatto che narrativamente è quello che è, roba del genere, però quel film funzionava. Cioè, le motociclette che volavano, la spada laser la prima volta che l'hai visto, questa cosa della forza, le cose che si sollevavano, i Jedi, alla fine c'era, cioè, tutta roba era costruita anche lì nel tanto vedere, ma anche il tanto non vedere, che alla fine comunque te creava misticismo, no? Cioè, era figo, cioè, cazzo, cioè, è difficile spiegare perché veramente uno si innamorava de Guerre Stellari. Era un modo nuovo di farlo, era il modo dei giovani, secondo me, giovani degli anni, a metà degli anni 70. Poi considera che tu hai fatto diverse le moto volanti, in realtà poi tra episodio 4, 5, 6 passano 6 anni, dove sono 6 anni anche di grande sperimentazione. Il cinema cambia proprio anche grazie a quelle stellari, cambiano le tecniche, cambiano le tecnologie, tre film molto molto diversi. L'Impero colpisce ancora, forse probabilmente il più riuscito di tutti, è uno dei film più riusciti di sé secondo me, ed è sicuro un film che, L'Impero colpisce ancora, che in realtà significa, la traduzione letterale sarebbe l'Impero risponde, come dire, contrattacca, dovrebbe essere. Esatto, contrattacca. Strike again, strike back. Thanks back. Strike back. Okay. Mostra anche in quel caso un'altra cosa, nel senso, il primo film ti fa vedere alcune cose, il secondo film te ne fa vedere altre, il terzo altre ancora. Cioè, il primo quarto d'ora di episodio 6 si svolge tutto nel deserto, con delle completamente differenti. È difficile adesso capire effettivamente che cosa è stato, da dove originava tutto quanto, perché poi tra l'altro, cioè, che avrò visto 20 volte l'uno come minimo, ma proprio come minimo, minimo, minimo, minimo. Sì, anch'io. E di conseguenza fanno parte talmente tanto della mia giovinezza e adolescenza, che farne un'analisi sensata è, dal mio punto di vista, quasi, quasi ridicolo. Complicato, certo. Detto questo, comunque c'è dentro tanta tanta roba, perché uno avrebbe potuto fare Guerre Stellari 2, La Vendetta, sempre con le stesse cose, sempre le stesse navi stellari, sempre le stesse cose, invece c'è continuamente una ricerca differente. Poi ovvio che gli anni cambiano, e dagli anni 80 si passa agli anni, fine anni 90, all'inizio anni 2000 con l'altra trilogia, e cambia completamente anche il modo di intendere il cinema, di intendere la visualizzazione delle cose. Diventa tutta una cosa differente. È lo stesso dicasi per l'altra trilogia. Sono tre trilogie pensate per tre generazioni differenti, e ognuna ha i suoi punti di forza e i punti di debolezza. Alla fine, episodio 7 è il film più visto di tutta la saga, cioè quello che ha fatto più soldi al cinema. Per cui è anche difficile dire, definire cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è bello, cosa è uscito bene, cosa non è uscito bene. Però, per esempio, se tu vai a vedere, al di là delle differenze che tu dici che ci stanno tra i primi tre film, ovviamente tra uno e l'altro, nei tempi in cui passavano, ed è stato il periodo in cui proprio anche grazie a Guerre Stellari comunque è nata una sorta di sperimentazione cinematografica rispetto a certi tipi di tecniche, anche a livello di effetti speciali. Però devo dire che tutto sommato comunque i primi tre film sono visivamente molto aderenti uno con l'altro, cioè proprio a livello di immagine Star Wars, che poi è l'immagine che viene replicata anche in Mandaloriano, se proprio andiamo a vedere, no? Molto più di quanto... No, secondo me invece no, secondo me ogni trilogia è figlia del suo tempo, come ho detto. I primi tre film, anzi, il primo film è una cosa molto a sé stante, perché anche lì certe cose se le sono inventate con lo... Poi dopo il 2 e il 3 sono molto invece più simili tra loro, perché certe cose erano state consolidate. Poi c'è la prima trilogia, la trilogia 1, 2, 3, che è quella più patinata, troppo sì, patinata. Sì, sì, esatto. E infine, sì. Perché a un certo punto c'è, cioè, le prime immagini digitali, cioè il poter fare delle cose completamente tutte al computer. Cioè, ricordiamoci che i primi tre film sono fatti tutti in analogico, in truco, quella che va chiamata quasi truca, cioè l'optical printer, cioè veramente, cioè, di tutto quanto possibile farlo a mano, diciamo, cioè fisicamente. Mentre l'altra trilogia è quasi tutta fatta quanto più possibile digitalmente, anche lì l'immagine è troppo fredda, troppo precisa, che poi è stata sporcata nella trilogia di Abrams, che chiamiamola così perché è lui che ha dato l'impronta estetica, che invece raggiunge una sorta di maturità, ma anche perché le tecniche e le tecnologie sono cambiate. Quando hanno girato episodio 2 l'alta definizione era 720, per dirti. Quando hanno girato episodio 7 hanno girato in 5K o 6K, cioè ripeto, alla fin fine... i modi di riprendere sono cambiati completamente, ma sono aderenti alla realtà e al tempo in cui sono usciti. Sì, però io ci ho sempre visto, poi sentiamo anche magari gli altri, cioè al di là delle differenze tra blocchi di trilogie che chiaramente ci sono, no? Però ecco, ho sempre visto una sorta di aderenza allo stile, all'impronta proprio visiva, no? Cioè comunque al tipo di dissolvenze che si usano, al tipo di inquadrature, al tipo di movimenti, no? Che comunque alla fine cercano di essere replicati perlomeno nella prima trilogia storica rispetto anche alla terza, un pochino secondo me lo riporta, no? Forse la trilogia di mezzo, quindi la 1, 2 e 3, che secondo me è quella proprio che fa più schifo di tutti, cioè da quel punto di vista, anche tecnicamente, cioè nel senso è proprio brutto da vedere, cioè onestamente, poi questa è la mia opinione, no? Tra l'altro Roberto Tomaiolo in chat ci dice che si parla di far finta che la trilogia di Rey non sia mai esistita, cioè tipo è una cazzata in mano, okay, che gira. Vabbè, però stai calmo, Puccio, non ti ha messo in giro sta voce tirando fuori delle robe fuori contesto dette da vari partecipanti, cioè ed è una cazzata in mano, okay, cioè viene riciccia ogni tanto su internet. Stai calmo. Prendi la Puccio, tirala fuori, prendila. Puccio, non abbiamo toccato il sedere di tua sorella. Stai calmo, cioè non è così. No, ma vi giuro, quella roba mi urta il sistema nervoso. Ce ne siamo accorti. Gira da un anno e mezzo ed è una cosa che mi dà un fastidio terrificante. Non tanto per Guerre Stellari in sé, ma perché l'autore di quella boiata ci ha fatto i soldi dietro questa stupidata che ha raccontato in un video YouTube. È bonus, anzi malus. Se vi andate a seguire il canale YouTube, di cui non vi dirò il nome perché pubblicità non gliene faccio, di questa persona, umanamente deve essere uno che fa veramente schifo, perché è uno di quelli, no, i film con i protagonisti, ma fai donne, schifo, no, i neri in Guerre Stellari, no, cioè è una roba atroce. Credo che fosse uno di quelli che quando era uscito ho capito, sì, ho capito di chi parli, allora, ok. No, di chi? Spero che non lo sappiate. Del genere è quello lì. No, perché comunque ci sono alcuni canali di YouTube che facevano affermazioni del genere, quindi... Sì, no, è uno di quelli, sì, di okay, quelli lì, okay, per okay, capirci. Va bene, perfetto. Vabbè, quindi no, Rey ce la teniamo, eh. Ma a me non mi sarebbe proprio dispiaciuto poi così tanto, insomma, cancellare completamente una storia dove il mio più grande eroe della mia infanzia muore come un coglione, però... vabbè, Rey sta, è la donna più bella del mondo, ah, va, non rompete le palle. Ma è piacere. E sì che ne hai viste delle donne belle, perché insomma. Ok, non è vero, però è del mondo di Guerre Stellari. Sì. Ah, beh, vabbè, ci vuole veramente molto poco. Beh, anche se Padme Amidala, secondo me, gli dà una pista. Ah, ok. Hai ragione. Okay. Natalie Portman è veramente una delle donne più belle del mondo, probabilmente. Però è talmente fuori dalla cosa, nel senso, cioè, non mi ricordo che c'è lei in Guerre Stellari, per dirti. Perché... cerchi di rimuovere quel Guerre Stellari in tre film in due ruoli diversi, anche, quindi ci ha fatto un po' voi. È vero. E beh, questo succedeva pure nel teatro nell'Ottocento, no? Che c'era l'attore, no, che faceva più cose. No, io continuo a essere innamorato tantissimo della ballerina Twi'lek blu di Jabba, però. Ah, beh, come no, voglia. Assolutamente. Sì, ma a te probabilmente piacciono gli anime erotici, quelli con i tentacoli. Tentacoli, sì, no, poi una cosa divertente che ho detto un po' di tempo fa, visto che l'abbiamo citata, la ballerina in questione, l'attrice che la interpreta, è ha morta. Ripreso il ruolo quando, no, quando ha fatto i shot anni suonati, sì, per fare delle scene aggiuntive. I reshot, sì, cioè, sì. Gli autori hanno detto, vabbè, dai, c'ha 50 anni, non vorrà... C'ha un fisico della Madonna tirato fuori, ho detto, ok, fallo, vai. Sì, appena l'hanno vista, ha detto, ok, perfetto, ridipingetela di blu e fatela ballare. Va bene. Allora, Alex, la cosa di Star Wars a livello cinematografico, chiaramente, o anche non cinematografico, partiamo da livello cinematografico e poi se voglio estendere anche... La cosa di Star Wars alla quale sei più legata, cosa può essere film, scena, situazione, oggetto, minchia? Beh, se deve essere una scena è no, io sono tuo padre, cioè senza ombra di dubbio è il twist più che grande. Poi è Chiquito e Paquito, poi fondamentalmente. Cinco, io sono tuo padre. Sì, esatto, no, però ripeto, dal mio punto di vista quella scena lì, drammatica, in quella situazione, cioè sospeso nel vuoto, cioè racchiudeva in sé veramente tanto del mio immaginario e dal mio punto di vista è stato il momento cardine. Poi ovviamente le battaglie nello spazio, beh. Più delle spade laser, le battaglie nello spazio. Beh, però sì, questo sì, è proprio gusto assolutamente mio. No, assolutamente, io sono totalmente d'accordo su questa cosa. Molto più delle spade laser, le battaglie nello spazio erano qualcosa era Guerre Stellari, gli dava proprio il senso anche al nome, no? Cioè nel senso, cazzo, ma di che stiamo a parlare, no? Cioè, se no è come Star Crash. Alla fine ci sono. Basta parlare male di Star Crash, che è un sito. Capolavoro. Io una volta ne riparleremo di questa cosa, perché ne parlavo una volta su Multimanie. Per me è capolavoro. Però di Star Crash non hanno mai fatto videogiochi. È vero, è vero. Questo lo pensi tu. Aggiungerei, guarda. Sì. Poteri forti. Poteri, guarda, sto studiando Python apposta. Forti. Io. Bravo, bravo. Esatto. Voglio Stella Star protagonista di un videogioco. Di un videogioco, va bene. E quell'altro che non ricordo Star, come si chiama, con i poteri super normali. I poteri super normali. Vabbè, poi lì bisognerebbe rivederlo anche in lingua. No, ma il problema penso che sia l'adattamento. Perché traduzione di merda. Sì, sì, e poi traduzione di merda. Un film super in italiano, un film italiano che viene girato ovviamente in inglese, perché poi il blocco della produzione è chiaramente americana. Che poi dopo viene ritradotto in italiano. È divertente. Insomma, dai. Vabbè, comunque non stiamo parlando di questo. Puccio, invece, qual è la cosa a livello cinematografico e non di Star Wars che ami di più? Tra l'altro io non ho mai capito, ma tu sei un super fan di Star Wars, cioè, no, io ho dei problemi seri con Star Wars. Okay. Super, vabbè, problemi seri mica solo con Star Wars, forma di dipendenza. Okay. No, allora, in realtà c'ho avuto dei periodi in cui molta roba avrei dato fuoco, però poi col tempo mi è passata. No, i miei momenti top sono la corsa di attacco in episodio 4, il momento in cui Luke c'entra con il siluro, il bocchettone, che poi abbiamo scoperto che non era lì per caso, perché ricordiamoci, ce l'aveva messo, abbiamo pensato che gli ingegneri dell'impero fossero un branco di disadattati, no, a prendere a ceffoni, per poi scoprire che in realtà Mads Mikkelsen aveva sabotato il piano originale e fatto trapelare la notizia. So, quella sì, perché mi ha sempre dato, come posso dire, una sensazione di lotta contro la probabilità vinta all'ultimissimo secondo dalla persona meno probabile di tutti. Vabbè, questo poi è replicato in milioni di altre storie, sta cosa. Sì, no, però lì è fatta, non so perché lì ci sta migliore. Cioè non è come la bomba che si ferma a 0,1 secondi prima di esplodere. Esatto. L'ho sempre vista come una roba più complicata. Quella è per motivi completamente diversi nel finale di episodio 2, quando Dooku guarda Yoda e gli dice questo duello non può essere deciso dalla nostra conoscenza della forza, ma dalla nostra abilità con le spade laser. Io ero al cinema con gli occhi completamente allucinati, che dicevo no, lo fanno combattere. E poi c'è Yoda che tira fuori la spada laser e diventa una trottola. Sì, esatto, qui c'è zoppa a destra manca. Per certi versi anche comica, però... anche ridicola, volendo, un po'. Ti casa talmente tanto che io ero in piedi sulla sedia che applaudivo, con gente che voleva picchiarmi. È finita la trasmissione, grazie, ci vediamo alla prossima puntata. Vabbè, no, scherzo. Che è successo? No, scherzo. Addirittura in piedi mi sembra un po' un'esagerazione. No, in piedi no, però ero veramente incollato alla serie, facevo dai, bellissimo. È vero che io a 300 ho visto scene che voi umani non potreste mai immaginarvi, però può succedere. Sì, no, vabbè. Scene di esaltazione al cinema. Di tamarri in sala. Esatto, cioè. Esatto. Tra l'altro è appena tornata a Scozia, che è venuta subito da me a farmi le feste, mentre io l'accarezzavo, ha guardato Gualdi, è rimasta pietrificata. Ah, pensavo gli avesse pisciato sulla gamba. No, no, no, oramai non piscia più quasi dentro casa, insomma, penso, spero. Solo su Gualdi. Allora, Marco, invece la cosa che di Star Wars alla quale tu sei più affezionato, rimaniamo ancora nell'ambito storico, diciamo. La vera trilogia, dici? Sì, anche, sì, diciamo... Ma nella vera trilogia ci sono tante cose su cui sono affezionato. Tutta la trilogia originale mi piacque molto, molto. Io la scena degli Luke che esce. Ovviamente io sono più basico, quindi la spada laser. Beh, la spada laser visivamente, spada, ragazzi, laser. Era una roba incredibile. Cioè, come funziona? La voglio anche io. Esatto. Tutti la vogliamo. Invece cioè, quella era fantastica, cioè, ma poi tutta quanta la storia comunque mi è piaciuta, gli effetti speciali che sembravano veri e anche oggi tutto sommato reggono, insomma, le cose, le moto volanti, cioè c'era veramente di tutto, insomma, sì. Cosa? gli Ewoks, dicevo. Vabbè, a parte gli Ewoks, abbiamo fatto pure un film. Su guarda, che se tu c'hai 10 anni, gli Ewoks ti piacciono. Se tu c'hai 10 anni, gli Ewoks ti piacciono. Cioè, gli Ewoks in 3 secondi nel finale di un film ci vanno pure. Sta che fai due film sugli Ewoks e comincia a diventare un problema, no? Quindi. Poi dopo in chat leggiamo quello che ha scritto Roberto Tomaiolo, che penso che no, ha anche beccato il nome dello youtuber che diceva cazzate. Vedi. E invece io la scena di Luke che esce dalla casa dello zio, quella scena, quella con le due lune, con i due soli. Io pensavo quello con lo zio Beru, la zia Beru e il zio Ben che sono carbonizzati. Esatto, quello dopo. Quella pure era bella scena. Zio Owen, c'ha ragione. Ricordiamoci sempre che sono stati folgorati. Folgorati, sì. Folgorati. I folgoratori, esatto. Non sono erratici. Vabbè, come i folgoratori. Sono vuoti invece dei cloni. Fate voi. Non sono goffi ed erratici come. Ma c'è un'arma elegante per tempi civilizzati, la spada laser. Capito? Tempi più civilizzati. Certo. La guerra dei cuoti anche, ricordiamo. Però, dai, la figura di. La prima figura, la prima immagine che c'hai di Obi-Wan è figa. Perché è veramente il vecchio mago. Ecco, che fa così. Che spaventa esatto, sì, bravo. Cioè, voglio dire, alla fine comunque è il vecchio saggio, il vecchio mago, no? Diciamo. È solo un vecchio pazzo, come è definito. Esatto. Il vecchio, che poi dice: no, ma Obi-Wan Kenobi, ma sarà mai il vecchio Ben Kenobi? No, ma cazzo, cioè, si chiama. Magari è un parente. Si chiama uguale, cioè, come fai a dire? Però, vabbè, poi c'è la guerra dei quoti, perché è un problema della. Però, insomma, vabbè. Secondo voi. Se escludiamo, partiamo da Alex, poi Puccio e poi Marco. Se escludiamo il cinema, in che cosa Star Wars si è incarnato meglio? Cioè, dove ha vinto, cioè, proprio la battaglia con tutto il resto? Alex? Posto che io nell'universo espanso ho letto soltanto un libro che è L'ombra dell'impero, se non sbaglio. Credo che ci sia un libro del genere. Sì, che è quello che Shadow of the Empire. Episodio 5 e episodio 6. Esatto, perfetto. E non mi è piaciuto tanto. E ho deciso che non. Scusate. Ho deciso che a me dell'universo espanso non me ne fregava veramente un cazzo. E infatti devo dire il fatto che l'imperatore si chiamasse Palpatine l'ho scoperto veramente tanto dopo. Perché, ripeto, non sapevo che c'era tutta questa roba qui. E se c'era non mi interessava più di tanto. Perché appunto l'imperatore non viene mai nominato nella. Si chiamava Imperatore. Si chiamava Imperatore, esatto, basta. Sì, esatto. Guarda, io su questa cosa sono d'accordo con Alex, ma io penso che Alex su questa cosa la pensiamo un po' uguali. Secondo me un'opera è figlia di quello che è. Cioè, nel senso, se fai un film che mi racconta le cose, che tu ci scrivi 47 libri dietro, dove io scopro cose che nel film non ci so, cioè, quindi è inutile che me le racconti, a me non mi interessa. Poi è chiaro che ci sono gli appassionati come Puccio e che ovviamente magari diciamo, però a me piace scavare, mi piace conoscere... Però è tutto un po' posticcio, poi diventa, no? Cioè, nel senso, chissà. Poi arriva uno stronzo Walt Disney qualunque e ti dice: no, sono tutte stronzate. E ricominciamo. Guardate, io ancora li sto a ringraziare per quella cosa. Comunque, vabbè, è un problema. Ti ringrazio pure io, però devo dirti la verità: lo stesso Lucas dopo ha detto, guarda, per me le uniche cose che sono vere per me sono il resto è. Fateci quello che volete, basta che mi date la percentuale dei soldi. Cioè, scusate, abbiamo tempo per una digressione scacciafiga. Aspetta, mo ce l'abbiamo. No, però perché adesso è pieno di gnocche che ci sta assaltando. Sì. No, proprio, ragazzi, io in 10 minuti, quelle poche che abbiamo vicino, si allontanano. Aspetta un secondo, Puccio, mo ci arriviamo. Però la domanda guarda che qui nello studio, qui nello studio di Runtime di Montrolo siamo pieni di pussi. Pussi. Vieni, Gozzi, vieni. Gozzi, vieni. Pussi a tutto Pussycat, infatti, giustamente. Comunque volevo dire Alex, guarda. Pussycat kill. Si spara sta giocando con Gozzi. Spara avanzata proprio in modo di circondare la Pussy. Torno alla domanda che faceva ad Alex, al di là dell'universo espanso, io dico, cioè, che cosa secondo te Star Wars come simbolo ha vinto al di là del cinema? Cioè, nel senso, in che cosa posso risponderti prima? Io, per me ha vinto giochi, dai. Senza ombra di dubbio. Ma per me è vinto tutto. Cioè, nel senso, c'è Darth Vader. Che cazzo è che non lo conosce? Sì, esatto. Cioè, il cattivo Darth Vader, la maschera, con la maschera di Darth Vader. Ma stiamo scherzando. Cioè, tu in tutto, dall'universo pop, cioè, ha vinto tutto. Come fai? Come fai a definire? Cioè, io ho fatto una domanda che in realtà per me non c'è risposta. Cioè, onestamente, per me, poi perché, cioè, voglio dire, cioè, Star Wars ha invaso talmente qualsiasi cosa con delle figure così iconiche. Che per quanto banali, no, tu dici ok, cioè, ma cazzo, erano, sono diventate le icone, cioè Darth Vader è il respiro di Darth Vader, è Spock di Star Trek, cioè è l'icona, cioè a volte era più famoso il personaggio che in teoria non è che è un comprimario tra virgolette rispetto a quello che poi in realtà è il protagonista, che in realtà era un coglioncello, no? Cioè, nel senso, è un po' la... È Nino D'Angelo, poi, alla fine. Nino D'Angelo, sì, un po' sì. No, poi Mark Hamill, ragazzi, è cresciuto a me. Cioè, in Wing Commander, Mark Hamill mi piaceva, cioè mi infrocizzavo per lui, cioè, proprio fisicamente. Rispetto a com'era da ragazzino, da grande è diventato un bell'uomo, dai, tutto sommato, insomma, no? Vabbè, comunque, torniamo alla cosa, Alex... Tu dici videogiochi. In realtà ti dirò, sono invece, secondo me, nei videogiochi ha tirato fuori il meglio di te. Perché... E anche il peggio. Quelli, però sì. Quelli del, i primi videogiochi, cioè quelli in cui c'era essenzialmente la componente... Partiamo dal primissimo videogioco, quello dell'Atari. Ok. Quello in vettoriale, okay. In sì. Cui sentivi... La voce campionata, Use the Force, Luke, cioè lì veramente, cazzo, finalmente sono io per il protagonista di quella roba lì. Assolutamente, e poi d'accordo. I vari TIE Fighter e chiama X-Wing che ti davano, ti mettevano in mano quella roba lì, perché non c'era ancora tutto quello che è venuto dopo, tutte le altre trilogie. Cioè, essenzialmente puoi giocare finalmente il film. Allora, secondo me, quello era. Mi aveva dato molto. Mi ha veramente messo dentro quella roba lì. Sì, allora il primo gioco dell'Atari sono d'accordo al mille per mille. Cioè nel senso, ma anche secondo me X-Wing e TIE Fighter, come dici te, pur essendo un'epoca in cui la tecnologia da quel punto di vista non era così sofisticata, erano usciti comunque a costruire un'esperienza credibile. Cioè, cazzo, stavi sull'X-Wing. Cioè, roba ignorante. C'hai ragione. Ma sempre perché Star Wars ha creato delle icone, l'X-Wing, oh ragazzi, cioè il TIE Fighter, cioè cose che possono sembrare oggi banali, però tu hai costruito degli oggetti che sono diventati iconici, cioè non guarda, più non il so TIE la solita Fighter, navicella, capito? Più il TIE Fighter, perché comunque più il TIE Fighter, sì. Anzi, io cito un gioco che praticamente è probabilmente una clonizzazione di Guerra Stellare, che è Star Raiders del 1979, uno dei primi giochi di spazio. In cui tu appunto guidavi questa astronave e avevi come nemici alcune astronavi che erano un po' ovviamente sterilizzate, e alcune avevano stranamente la silhouette dei TIE Fighter, quindi c'è la palla al centro e due cose ai lati, le due sbarrette ai lati che simulavano le ali, diciamo, verticali dei TIE Fighter. Quindi cioè, comunque ha fatto anche quello più ha segnato qualche cosa come modelli per quanto riguarda le astronavi, e anche la simmetria. Perché per la prima volta abbiamo visto le navi asimmetriche, come il Millennium Falcon. Perché asimmetriche, hai detto bene, cioè completamente sbilanciate proprio. Cioè noi per esempio abbiamo visto su Discovery, su Star Trek Discovery, abbiamo visto l'astronave di Book, che è un'astronave sbilenca, asimmetrica, e secondo me l'ispirazione del Millennium Falcon lì c'è stata tutta, cioè proprio a mani basse, insomma. Quindi ecco, dal punto di vista proprio visivo, cioè della creazione degli oggetti, che alla fine, quando, cioè non è X-Wing, cioè, scusate, non è Wing Commander, che per quanto mi sia piaciuto tantissimo, era Wing Commander, cioè era il classico dogfight nello spazio, cioè erano navicelle come altre, cioè le astronavi di Star Wars erano le astronavi di Star Wars, ma pure i suoni, oh. Cioè, ma che lavoro c'è dietro, Alex? Cioè, è roba, cioè, no? Sì, dal punto di vista del sonoro, e questo Lucas è sempre stato un grande cultore, ovvio che tutto parte da lui perché era contemporaneamente produttore e regista, d'accordo. Effettivamente anche l'utilizzo del suono in questo modo ha contribuito tantissimo a rendere lo spettacolo ancora più spettacolare. penso appunto al suono delle spade laser, ma anche i suoni dei blaster e ovviamente il respiro di Darth Fener, porco due, si chiama così perché io quando avevo 4 anni si chiamava Darth Fener e Darth Fener tutta la vita e si possono inculare tutti quelli, ma l'hanno tradotto male, ma fanculo. Sì, sì, vabbè, ma è Han Solo, no. Han Solo, sì. Han Solo, Leila. Cioè, quindi non ci rompete i coglioni. E soprattutto C1P8. Dovete cagarmi il cazzo, è C1P8 tutta la vita. C1P8, stai bene, non sei rotto. Lo dirò sempre, mi avete rotto il cazzo. È vero, è vero. Ma proprio ho scritto tutto attaccato, C1P8 a lettere. Senza neanche usare. Esatto, con l'hashtag pure un pochetto. Senza C1P8. No, ma io infatti Alex lo volevo in questa puntata per questo. Cioè, perché sbrocco. Ma no, ma perché facciamo parte della stessa generazione e... Continuo a dire, io lo ripeto sempre, la famosa frase di Mark Hamill, questo non è più il nostro Star Wars. Allora, è vero parzialmente perché non è pensato per noi, e c'ha ragione Alex quando sostiene sta cosa. Poi chi ama Star Wars lo ama comunque, cioè non è una mia, non vuole essere una digressione, un attacco nei confronti del nuovo Star Wars, no? Però in generale, chiaramente, noi abbiamo conosciuto un'altra epoca per film che erano concepiti per noi da ragazzini, come i Goonies. Oggi magari faccio vedere a un ragazzino dei 9 anni come i Goonies, per come era stato concepito, e chiaramente dirà: ma che è sta cagata? Cioè, chiaramente. Quello lo dicevo anche a suo tempo, io lo so. No, chi sono strano. A me no, i Goonies non è mai piaciuto. No. Non esiste. No. Un dolore atroce mi adesso. Ma io lo ammetto sta cosa qua, che so che sono fuori dal coro. Oh, ci sta. Perché tu hai la nebbia dentro. Così. Figa, ma proprio il più terrone dei tuoi amici del nord, lo vai a dire. Sì, esatto. Sì, hai la nebbia dentro. Ma pensate a me che sono il più terrone di quelli del sud. Esatto, e c'hai la nebbia pure tu. Pure lui c'ha la nebbia. C'ho la nebbia pure io. Anzi, cioè, tu c'hai più nebbia di quelli del nord. La voglia. Cioè, perlomeno c'hai più pioggia, quello sicuramente. Insomma. Sì, no, io ce l'ho nel cervello, soprattutto. Pioggia, ma a te alcuni se ti piacevano? Comunque, no, ragazzi, al di là di tutto, mo, Star Wars, le trilogie sono state fatte 3x3 pubblici diversi. Però Star Wars c'ha un problema che secondo me è assolutamente irrisolvibile. O meglio, l'ha risolto solo Lucas, vendendo. Star Wars c'ha un fandom veramente, veramente, tossico. Veramente de merda. Tossico, cioè, sì, tossico, gente che andrebbe presa a ceffoni dalla mattina alla sera a due finché non diventano dispari, perché vi assicuro, io sono il primo che dice che ci sono cose che vanno bene, che vanno male in tutte e tre le trilogie, che ci sono trovate più o meno riuscite in tutte e tre, però ogni cazzo di volta che esce un prodotto legato a Star Wars qualsiasi, c'è un coro di critiche preventive basate su, che ne so, bozzetti dei disegni per le serie a fumetti, trailer, piuttosto che immagini prese per le serie animate, basate sul nulla, che si chiudono sempre con ma una volta era meglio. Ma una volta era meglio il cazzo, scusatemi. Ma guarda, questa cosa una volta era meglio, c'era la serie animata dei droidi che faceva schifo, pietà e misericordia. Mamma mia, abbiamo Clone Wars, che, perdonatemi, siamo 2-3 gradini sopra. No, ma in realtà dei prodotti correlati a Star Wars di schifo ce ne sono stati diversi. Il problema è che, e per venire un po' incontro anche a quello che tu dici, quando c'è stata l'unica volta chiaramente che siamo stati allo Stickcom, fecero questa conferenza perché stava per uscire praticamente il primo film della nuova trilogia, no? Dove in questa conferenza tutti sti mega fan ultra Star Warsiani dicevano che erano felici del fatto che era Abrams che aveva preso in mano la cosa, perché George Lucas non conosceva abbastanza bene e non amava abbastanza l'universo di Star Wars. E di fronte a una cosa del genere, che posso anche capire che uno magari invecchiando perde un attimo la cognizione anche delle cose che fa, magari può non piacerti, quello che ti pare, ma tu non puoi fare un'affermazione del genere, no? Cioè, nel senso, al di là di tutto, è come se tu vai da Gene Roddenberry, vabbè, ma tu di Star Trek ci capisci in cazzo, è la stessa cosa, no? Cioè, nel senso, no, ma cioè, senza andare troppo lontano, quando ha venduto a Disney e l'hanno intervistato, lo ha detto. Cioè, l'ha detto: io, dopo la fine della trilogia prequel, ho smesso di divertirmi. Cioè, avevo dei progetti, mi sono guardato nello specchio, ho detto: c'ho voglia di attraversare un mare di merda scritta da gente che vive, scusate la citazione di Kevin Smith, rinchiusa nel sottoscala dei propri genitori con una connessione a internet? Perché cosa? questi mi stanno offrendo i miliardi, oh, io glielo vendo, mo se la vedono loro con vabbè questi. Ma cioè, il debito pubblico della nazione media cioè, no ma cioè volete sapere una cosa? All'epoca mi colpì, ma che poi una giustificazione c'era, c'erano delle foto di Lucas che in un comic store di New York, dove in viaggio di nozze ci sono andato anch'io, era entrato per comprarsi i fumetti nuovi del nuovo canone di Star Wars, dicendo non me li sono neanche fatti spedire perché non volevo più toccare quel prodotto perché ormai non è più mio, e soprattutto perché non volevo avere modo di interagire col pubblico quando criticherà questi prodotti. Poi non ho retto più, sono passato davanti al negozio, li ho visti in vetrina e li ho comprati. Cioè, pure lui era arrivato al livello di saturazione su, vabbè, ma è anche su questo tipo di, appunto, di perché cosa. Perché stiamo parlando di una cosa che è talmente iconica che ha invaso un po' tutto. Allora, ragazzi, allora, Alex, i tuoi tre film migliori di Star Wars, cioè proprio quelli proprio che 4, 5, 6. Quindi veramente i primi tre, giusto? E l'ordine è, secondo me, fammi pensare, direi 5 soprattutto, naturalmente. E adesso sarò deprecabile, sarò criticato, nell'ordine 5, 6, 4. Il mio preferito è il 5, secondo il Ritorno dello Jedi, è l'ultimo. E comunque mi chiede tantissimo Guerre Stellari. Beh, diciamo che il Ritorno dello Jedi è forse il, a me è quello che... Boh, forse, vabbè, perché c'è il Ritorno dello Jedi, cioè l'entrata di Luke Skywalker da Jabba, ragazzi, valeva il film, insomma. Servi anche... bene il tuo padrone, sarai ricompensato. Sì, ma poi c'è, nel senso, un personaggio che fino all'altro ieri, cioè, sono anche cinematograficamente, anche visivamente, sono riusciti a dare una personalità a un personaggio che fino a ieri in realtà era, non dico un bamboccio, cioè, però si, cioè, in quel film, in quei tre film si vede l'evoluzione del personaggio e la scena finale di lui che si leva il cappuccio tutto vestito nero e si presenta come cavaliere Jedi, cioè, cazzo. E io dicevo, non mi fa incazzare. Esatto. Per 10 minuti non mi fa incazzare. Esatto. Come stai a far incazzare? E poi è il film più bello perché dove muore Jabba the Hutt, sì, Jabba the Hutt, in parte no, dove muore Boba Fett, che da lì in poi diventerà misteriosamente uno dei più grandi miti dell'era di Star Wars, senza nessuna ragione, senza nessun motivo. Io continuerò sempre a sostenere questa cosa perché è una cosa che hanno fatto su Disney Plus, cioè una puntata dei documentari che fanno intorno alle serie, ai film che producono, e qui a un certo punto si parla di Boba Fett, effettivamente, cioè interrogano gente dell'epoca che dice noi non l'abbiamo mai capito perché già da episodio 5 era piaciuto così tanto al pubblico, cioè loro pensavano per una questione estetica, bella l'armatura, bello il casco, quello che vuoi, però diceva, cioè, ha detto quattro frasi, fa una fine oscena, mai capito perché piacesse così tanto. Ah, boh, io infatti... Allora, Puccio, i tre libri, fumetti... No, aspetta, prima ti dico i film. Ah, i film? Ok, vai. Io sono 584. Sì, io sono 584. 584. L'otto qual è, scusa? Aspetta. No, gli ultimi Jedi. Quelli che praticamente gli manca il carburante, vanno avanti a mano. Sì, esatto, perché se togli quella roba che non possono sorpassare perché c'è la doppia striscia, come dice Leo Ortolani in una vignetta, tutto quello che gli sta attorno, cioè la missione su Canto Blight di Finn, quindi si sta lamentando, anche Scozia si lamenta perché è un film di merda quello, cioè, no, ragazzi, guarda, cioè, subito dopo, no, l'impero colpisce ancora, secondo me è quello che metteva le basi per avere qualcosa di diverso, cioè già il fatto che ci abbiano provato, che poi hanno ritrattato nel film successivo, a levarsi davanti al cazzo la storia della stirpe predestinata, cioè che tu se fai parte di una certa discendenza sei destinato a grandissime cose, già il fatto che sia, quando hanno cercato di far capire, poi ripeto, ritrattando, che Rey letteralmente era figlia di nessuno, o la scena finale in cui si vede il bambino che solleva la scopa con la forza e capisci che non, insomma, quello non è che può essere un altro Skywalker nascosto sotto il tappeto e tirato fuori all'occasione, quello, vi dirò, è della nuova trilogia il film che, anche perché a un certo punto fa discorsi un po' più maturi, parla di economia di guerra, parla della vendita delle armi, del fatto che sostanzialmente chi produce vende sia al Nuovo Ordine che alla ribellione, cioè il fatto che Luke cerchi di far capire a Rey che non è il nome è l'eredità di un ordine cavalleresco importante, ma il problema sta da un'altra parte. Yoda che fa bruciare i libri guardando Luke e dicendo: ma li hai letti almeno? E Luke sostanzialmente fa capire di no, perché dice che probabilmente non conosceva neanche la lingua in cui erano scritti, anche se poi quei libri li vediamo sul Millennium Falcon, perché probabilmente se li è zottati Rey prima di andare via. È un film che all'epoca mi piacque molto, che ogni tanto rivedo e che trovo superiore sia alla trilogia. Io l'unica cosa che non ho capito è perché lei a un certo punto alla fine dice di chiamarsi Rey Skywalker, così. Ma è una puttanata che ha fatto Abrams. Io continuo a dire che è molto di effetto alla fine, nel senso che fai parte di una famiglia che ti scegli, cioè di una famiglia che in un certo senso ti ha dato qualcosa, perché lei è stata istruita sia da Luke che da Leila, e non importa la famiglia da cui provieni biologicamente, perché lei comunque, spoiler, discende dall'imperatore. No, adesso avremmo perso un sacco di ascoltatori. L'ha detto spoiler. Se spoiler deve dare un minuto. Esatto, uno deve spingere. Ho detto 3 secondi, sono più che necessario. Senti, allora prima di andare da Puccio vado da Marco, perché poi Puccio aprirà le sue digressioni. E faremo scappare le fregne. Sì. Intanto io ringrazio Angela in chat telegram.me/dirette runtime, perché mi sta dando anche supporto tecnico. Quindi ringrazio Angela e l'informazione che ho ricevuto è che i Goonies piacciono ancora anche ai bambini di oggi. Ma certo che piacciono. I bambini di oggi non capiscono un cazzo. Bambini di oggi, ma senti poi in che modo l'ha detto: non faccio un cazzo. Sembrivi questa è la nebbia che è dentro di lui che parla. Esatto, sembravi, non so chi sembravi Bossi, ecco. Così. Vai Marco, i 3 videogiochi più belli videogiochi, della film, storia di Star Wars. Ah, film, io vado sul 4-6-5. 4-6-5, ok. Anche quindi, se stanno lì. Il 5 è il meno preferito della prima trilogia. Sì, assolutamente sì. Poi venite a parlare a me con i Goonies. No, poi dite a me che sono strano. Non ha detto che. Aspetta, tu hai Goonies. Tu hai Goonies, ha detto che ti fa schifo. Lui ti ha detto che tra i 3 film, pure che gli piacciono, è quello che gli piace di meno, che è un po' diverso. Appunto, è peggio. No, insomma. Assolutamente no. Questa era sempre la nebbia che porca troia la nebbia. Vai Marco con i 3 videogiochi più 3 belli. Videogiochi. Allora, io perché sono non molto, è così facile. Sono molto affezionato al videogioco. Nintendo 64. 64, bravo. Allora, questo gioco è tratto probabilmente, non lo saprò mai, ma forse me lo dirà Puccio, da un libro che avete citato voi che ha fatto schifissimo, che è Shadows of the Empire. Che magari il libro farà schifissimo, però il videogioco ha fatto schifo ad Alex. Esatto, il libro era schifissimo, però il videogioco mi è piaciuto tantissimo e mi faceva vedere le vertigini, perché c'erano dei pezzi in cui con il jetpack dovevi saltare e volare tra un pinnacolo e l'altro cercando di non esaurire il carburante e finire nel vuoto. È una cosa che veramente i giramenti di testa facevano. È veramente un giochino bello bello bello. Poscia, mi ricordo tanto Rogue Squadron. Sempre su Nintendo 64 lo giocai, quindi è un gioco in cui potevi interpretare, guarda un po', Rogue Squadron. Tutto il Rogue Squadron. Quindi praticamente tu facevi un pilota normalmente. Come quando vedevano uno con le orecchie a punta, tu sei Star Trek. Tu sei Star Trek, esatto. È tutto Star Trek. Esatto, e qui tu potevi giocare con diverse, sbloccare navi come Millennium Falcon, dei TIE Interceptor che erano delle versioni sperimentali, i V-Wing che forse non sono mai entrati nel canon. Il terzo gioco. Aspetta che? Perché ci vogliono i rulli. Sono visti, fanno proprio orrore, schifo e pietà, però vabbè. Cosa, i V-Wing? Sì. Però no, quelli del videogioco erano fighi. In Clone Wars si vedono anche. No, nei videogiochi erano diversi. Erano fighi. Ma fa cagare, è bruttissimo da vedere. Sì, ma ripeto, quelli visti in quel videogioco erano fighissimi. Erano i più cazzuti di tutti. No, è l'altro gioco. L'altro gioco ci vuole il rullo dei tamburi. Perché chiaramente. Fai il rullo dei tamburi? questo è il camion. Ci metto un po' di OGM. È il camion diesel che si accende. Esatto, okay. Rullo di tamburi. Allora, in realtà sono combattuto. No, dai. Sono combattuto, però in realtà no, è sempre Knights of the Old Republic. Kotor vince sempre. Che forse ributtano, ragazzi, non so se avete ho saputo. Però lo faranno un action adventure, quindi non è detto. Perché diamo una questa notizia un po' importante, è una cosa che avevamo detto 3 anni fa, anche se nessuno ci credeva, ma la ricostituzione di Lucasfilm Games, che inizialmente sembrava che fosse solo a fini commerciali e a fini, insomma, diciamo, de marketing, diciamo così, in realtà, come sospettavo io, nascondeva un'operazione in atto già da molto tempo, quella del rientro totale di tutte le licenze di Star Wars all'interno della casa madre. Tutte le licenze significa che Electronic Arts sapeva del culo, poi fondamentalmente ho detto in... Ah no, se l'è già presa. Se l'è presa del culo perché ci ha speso un sacco di soldi. Poi. È vero che, cioè nel senso, questo succede nelle licenze. Io ti do la licenza per 5 anni. Tu se in quei 5 anni hai investito soldi a puttane, è un problema, è un po' il tuo, insomma, diciamo così. Perché io adesso mi riprendo tutto, compresi i titoli che sono usciti. L'ordine, bello. Compresi, sì, vabbè, però compresi i titoli che sono usciti. Cioè nel senso, rientra tutto. E si vocifera dello sviluppo anche di nuovi progetti. Allora, si sa di un open world che è in mano a Ubisoft. Narrativo. Sì, narrativo. Che poi voglio vedere open world in Star Wars. Cioè vuol dire che viaggi tra le galassie. Che cazzo di open world? O fai dei pianeti piccoli? Vabbè, vedremo. E in più c'è questo reboot annunciato di Knights of the Old Republic, che non sarà il terzo per tutta una serie di motivi che vi spiego dopo, e che è stato affidato a un team di cui non hanno svelato il nome. Hanno solo detto non è chi vi aspettate, quindi non è Obsidian, non è BioWare, e hanno detto che è come tipo di prodotto, per chi lo sta sviluppando è un tipo di prodotto nuovo, quindi 3 miliardi di punti interrogativi, vedremo. Vabbè, vedremo. Comunque, però come non citare il bronzo. Esatto, no, mamma mia, buono. Come non citare, scusate, ma c'è un po' di casino. Scusate, è il cane che si è mangiato il mouse. Jedi Academy 2, per dire che mi piacque tantissimo. D'altronde, ragazzi, ci vuole un momento di addestramento, perché Jedi Academy è piccola, c'ha 3 mesi, insomma, anche troppo si comporta dentro lo studio di Runtime Radio. Dogs of the Old Republic. Esatto. Dogs of the Old Republic. Comunque, dicevo, come non citare Jedi Academy number two. In realtà, secondo me, ce ne sono molti. Ce ne sono una cifra dei giochi belli di Star Wars. Ci sono anche una cifra di giochi di merda, tipo Terrascasi, qualcuno. No, quell'altro, il potere della forza, pure faceva schifo. Dai. No, ti dico che invece in realtà non era brutto. Il primo non era bello. Ok, vabbè, però. Non ho mai giocato il 2, però il primo non era male. Ma neanche Fallen Order è così male. È che io non riesco a. È Uncharted con le spade laser. Non riesco a tollerare la meccanica soul-like dentro a quel. Cioè, lì. Sì, cioè, mi concentro, rispondono tutti. No. Negli stessi punti, no, è vero. No, quello non riesco vabbè, a capire. Hanno seguito un po' la moda. Che adesso vabbè, cioè, almeno dagli una giustificazione. Cioè, sono ritornati nuovi Stormtrooper. Però cambia il posto, cambia non si sa da dove, ma la dislocazione. Cioè, dagli un significato. Non che rispondano così a cazzo dei cani. Quello proprio non riesco a. Non mi piace. Cioè, allora, Demon Line, nei giochi di Demon Soul ci sta, perché è un mondo strano, particolare. Quindi ci sta dei discorsi particolari, ma lì non, in Guerra Stellare non c'ho io. Ah, io dico una cosa e poi dopo continuiamo, così sentiamo anche Puccio con i suoi 3 libri e i suoi 3 videogiochi. Però voglio tornare un secondo da Alex e gli chiedo: cosa pensi se io dico mamma, ho trovato un posto, finalmente mi hanno assunto, farò un film di Star Wars? Ah, bello de mamma, e che film fai? Faccio lo Stormtrooper. No, Stormtrooper è un po' difficile. Nel senso. Ma non so a che cosa è legato a questo. Lo Stormtrooper, cioè in generale essere uno che lavora in Guerre Stellari, sì, che recita in recita tra virgolette in Guerre Stellari, e fa lo Stormtrooper. Esatto, muori. Cioè, nel senso, è quello che spara. E non sa sparare. Quello che spara a casaccio spara male, esatto. E muori. Cioè, nel senso, non. Che è una cosa pure questa iconica. Cioè, nel senso, anche l'abbiamo visto anche in Mandalorian, no? Cioè, nel senso, che questi. Ah, io poi mi sono sempre domandato: questi l'armatura. Che cazzo ce l'ha? A che gli serve? Che il primo colpo che parte, cioè arriva addirittura colpo, il primo cazzotto in testa. Colpo, cioè arriva un Ewok e ti prende a randellate, cioè, capito? Un Ewok. Cioè, comunque, il primo colpo laser che arriva muori, quindi non serve un cazzo sta armatura, no? Cioè, e poi che cazzo avete fatto? Quante 150 milioni di soldati è inutile, non ci vincerai mai una guerra, perché loro spareranno sempre fra dei, se parlano fra di loro praticamente. Cioè, boh, è una cosa, è l'immagine troppo cogliona di questi soldati, che anche in Mandalorian abbiamo replicato, insomma, abbiamo visto che, insomma, la cosa va ancora di moda, questa cosa di sparare contro gli Stormtrooper, che tanto sono birilli che cascano per terra e loro sparano ovunque tranne che... Cioè, ricordiamo, insomma, l'inseguimento dentro la Morte Nera, Luke e tutti gli altri che scappano con tutti sti fasci laser intorno, e ce ne fosse stato uno che non dico che gli è andato vicino, insomma. Infatti loro vanno sul numero, cioè 10 Stormtrooper è più o meno una persona normale. Ho capito, ma cioè statisticamente è improbabile che 10 persone che sparano una direzione non beccano 5 persone, cioè, capito? Cioè, se questo... sei uno Stormtrooper invece sì, esatto. È altamente allora, probabile. Considera che inizialmente sono dei cloni, per cui vabbè, lì ci poteva stare che è stupido uno. Poi, sono stupidi tutti, tu dici. Nella trilogia 4, 5, 6 essenzialmente prendevano quelli mi arruolo per non fare altro, per cui tendenzialmente gente che aveva tutt'altro nella testa non vabbè, un po' come succede nelle forze armate di mezzo mondo. Esatto, esatto. E infine nell'altra trilogia prendevano gli orfani, perché appunto c'è gente appunto disadattata. È ovvio che se sei disadattato c'è un po' di problemi, non è che sta lì a sparare tanto, poi magari ti viene anche la coscienza come... E certo, è meglio che mi sparano addosso a me con la mia corazza che non serve assolutamente a niente, che però filtra l'aria dalla polvere. Però filtra l'aria dalla polvere. Ricordiamo sempre il soldato imperiale che abbiamo conosciuto noi, sempre a Bellaria, che diceva: io sono qui per cercare i droidi. E sono quelli. E Carlo Nucera gli fa: ma stanno lì i droidi? Ah, allora li abbiamo trovati. Vabbè, delle scene bellissime che potete ancora ritrovare su YouTube volendo, dove... se non ci hanno se non viene tolto il video e non lo hanno ridoppiato con le scorecce. No, il video c'è ancora, ci sono ancora i commenti della gente, okay, che ci insulta: ah, siete delle merde. E vabbè, Luca si era spaventato, voleva levarlo perché pensava che... Vabbè, vai Puccio, parti dai tre videogiochi. Ah no, i tre film l'hai detti tanto, no? Allora, i tre film li ho detti, mi avete già insultato, quindi 584, ripeto. Per quanto riguarda i videogiochi, Knights of the Old Republic, pari merito 1 e 2, anch'io, forse con una leggera preferenza per il 2. No, non ma so come? È pure so mezzo farlocco quel gioco. Spiego. Un po' incompleto, diciamo. Perché in realtà cioè, l'ho sempre trovato più fresco. Da un punto di vista narrativo l'uno l'ho fotte allegramente, però non so, il 2 aveva meno momenti morti rispetto all'uno. Però vabbè, vedremo. Seguito da... Io ho giocato per 3 anni abbondanti al gioco multiplayer online, che era Old Republic. E vabbè, lo riprende molto, è sempre Bio. Viene esattamente... segue gli eventi di Knights of the Old Republic number 2, quindi è ancora attivo come gioco, è molto diverso rispetto a quando lo giocavo io, però se potete fateci un giro, perché almeno fino al 20° livello è gratis, potete farvi un'idea, è molto appassionante, ha una bella trama di fondo, un bel endgame, se vi capita di poterlo provare fatelo sicuramente. Terzo e ultimo classificato, X-Wing vs. TIE Fighter, perché anche se io sono una leggendaria pippa a guidare le astronavi con la cloche e il thrust... Perché fai sempre 60 km orari, mi sembra. Vabbè, Puccio, c'è stato. Ormai sei condannato. Sei condannato, ormai, Puccio. Sono condannato. Che vedevo fa. E quindi... vabbè ragazzi, se vogliamo aprire la parentesi libri universo espanso, no, tre libri. No, vabbè, in pratica ne cito uno per motivi storici. Allora, il primo è esattamente il primo libro mai scritto come membro del mondo di Star Wars, si chiama La Gemma di Kybur. Adesso, se lo citate a qualche fan di quelli duri e puri, comincerete a vedere smorfie, attacchi di nausea, mal di testa, tentativi di fuga. Sostanzialmente perché questo libro è stato scritto perché Lucas non era sicuro che avrebbe girato un secondo film di Guerre Stellari, avevano di portare avanti la trama, quindi Lucas trovò uno scribacchino di cui poi vi farò il nome, che merda, di solito si chiama merda, come? Merda, vieni qua, no, scusa, via qua, e gli fece scrivere un ipotetico seguito degli eventi di Guerre Stellari, in cui Luke e Leila, che praticamente flirtano dall'inizio alla fine del libro, perché ovviamente non era ancora stato stabilito chi era il fratello di chi, li ritrovano su per una serie di incidenti su un pianeta sul quale trovano una miniera gestita dall'impero da cui si estraggono cristalli che poi sono gli stessi che vengono montati all'interno delle spade laser, perlomeno nel vecchio canone, che si chiamano cristalli. Sì, c'è un incontro con Darth Vader. È quasi del tutto assente il personaggio di Han Solo, perché Lucas era abbastanza sicuro che Harrison Ford, se anche avessero girato il secondo film, non si sarebbe presentato o avrebbe cercato di svicolare in qualche modo, quindi cercò di tagliare il personaggio anche da lì. È stato il primo tentativo di universo espanso, viene considerato assolutamente non canonico, ma non adesso, già 24 ore dopo che era uscito e un quarto d'ora dopo che ma che è sta merda, infatti, sì. L'impero colpisce ancora. In Italia l'hanno tradotto, è uno dei tanti libri che ha tradotto la Sperling e Kupfer, però ha avuto una prima edizione Mondadori. Si trova abbastanza facilmente su eBay, con 20 euro ve lo portate a casa. Ci perderete 6 ore della vostra vita a leggerlo, non è niente di memorabile, però c'ha un'importanza nell'universo espanso di Star Wars semplicemente perché è stato il primo prodotto di quel tipo a essere inserito e poi digerito ed espulso. Questo perché, come dicevamo prima, è vero che c'è un ricco universo espanso nato prima della Disney e poi resettato, ma è anche vero che per Lucas tutto quello che veniva scritto fuori dai film oggi funziona, domani me lo assorbo oppure domani lo cancello. Per esempio, il nome del pianeta di Chewbacca, dei Wookiee, Kashyyyk, viene stabilito in una serie di 3 romanzi, che poi erano gli altri libri di cui volevo parlare, che sono quelli di Timothy Zahn, L'erede dell'impero, Sfida alla nuova repubblica e L'ultima missione. Ci avevano di particolare che erano i primi libri ambientati dopo la battaglia di Endor, a cui era stata data una certa aura di ufficialità, nel senso che Lucas ne aveva parlato come degli eventi che accadono ufficialmente dopo la battaglia di Endor. Quindi con l'arrivo di un generale dell'impero, di un grande ammiraglio, Thrawn, che è appena tornato dalle regioni ignote, mandato in missione dall'imperatore, allontanato dall'impero perché unico alto ufficiale non umano. Difatti Thrawn è della specie dei Cis, praticamente sono umani in tutto e per tutto, però sono blu come i puffi, molto alti e con gli occhi azzurri. Sì, è l'unico libro, no, è l'unico libro di Star Wars che io ho mai letto in vita mia, l'unico proprio. Quindi, allora, e mi stava anche un po' sul cazzo, perché questo praticamente, cioè, quello che mi ricordo io è che questi come pensavano qualcosa, lui già c'era arrivato. Lui già c'era arrivato, sì. È una cosa fastidiosa, cioè, troppo fastidiosa. Allora, Timothy Zahn più di una volta ha detto di aver modellato il personaggio di Thrawn su Sherlock Holmes, perché in effetti nei romanzi di Sherlock Holmes, di cui sono un grande appassionato, Holmes vorresti prenderlo a schiaffi, perché spesso e volentieri risolve i casi perché sa cose che il pubblico, cioè tu lettore, non sai e che gli altri non hanno visto. Thrawn funziona esattamente allo stesso modo. Sì, non è proprio lo stesso meccanismo, però vabbè, dai, perché Thrawn dice no, mettiamo i razzi sui macigni dello spazio e facciamoli schiantare. Funziona. Poi c'è il Pelleon, il suo primo ufficiale, che va: ma comandante, come le è venuta questa idea? No, perché mentre lei non guardava, io mi sono studiato l'arte degli abitanti di questo pianeta e ho dedotto che avrebbero cercato di scappare. Cioè, vorresti gli acceffoni dall'inizio alla fine. Vabbè, tra l'altro fa una fine infame, perché fa la figura del tonno, perché si fida un po' troppo delle sue, diciamo così, capacità manageriali. Thrawn è stato poi ripreso recentemente, però spostato in un altro periodo temporale, è stato inserito in Star Wars Rebel. Continua a essere uno stronzo, però è più digeribile come personaggio. Il terzo libro di cui volevo parlare, ne avevo accennato pure prima, fa parte invece del nuovo canone. Ce l'ho in mano in questo momento, si chiama Le leggende di Luke Skywalker, di Ken Liu. Ken Liu, dicevamo prima, è tuttora vivo, è un autore di questa nuova new wave sino-americana della fantascienza. Diciamo, non è un autore di space opera, ha scritto, diciamo, tipi di fantascienza più intimista fino a questo libro, e anche in questo caso non si è lanciato nelle battaglie o negli scontri con le spade laser, ma ha tirato fuori una serie di racconti in cui personaggi di secondissimo piano o comuni abitanti di altri pianeti raccontano a dei viandanti, che poi sono Luke e Han e Chewbacca sotto mentite spoglie, le storie che sono arrivate a loro sulla ribellione, sull'impero, su come Fener sia stato sconfitto. E quindi, come si dice, paese che vai, storia che trovi, in varie città, in vari pianeti, sentono raccontare di volta in volta cose diverse. Il primo racconto forse è quello più bello, perché all'interno di una taverna c'è un tizio semicomplottista che si alza sul tavolo e dopo essersi abbondantemente alcolizzato comincia a raccontare che in realtà la ribellione è una truffa, che Obi-Wan Kenobi non è un ex cavaliere Jedi ma è un truffatore di quarto ordine che metteva in piedi effetti speciali e che aveva sostanzialmente rapito un ragazzo per fargli fare da figurante e poi metterlo sul trono dell'imperatore, ma in realtà comanda lui perché non è veramente morto, ce l'hanno fatto credere ma non è vero. Tutta una serie di storielle così. È molto bello, è divertente ed è soprattutto originale. Non è un libro di battaglia, non è un libro di combattimenti, è però un bel passatempo. Se avete 16 euro che vi avanzano, almeno penso costasse 16 euro all'epoca, 18 euro costa adesso, ve lo consiglio vivamente. È uscito per Mondadori quando ancora aveva i diritti per Star Wars. Perché, aperta e chiusa parentesi, i libri di Star Wars in Italia hanno avuto una vita un pelo travagliata. Sono stati innanzitutto partiti da Mondadori, sono usciti alcuni nelle collane Urania, tipo un fantastico Han Solo Guerriero Stellare, nella cui traduzione il Millennium Falcon è diventato il Falcone Millenario. Perché Urania erano un po' così i traduttori. Poi sono passati a Sparling e Kupfer, che ha avuto l'universo espanso per tantissimi anni, per poi finire qualche anno fa in mano a Multiplayer Edizioni, che ha fatto un ottimo lavoro, ha pubblicato un sacco di roba, ma veramente tanta. In seguito probabilmente Disney non ha ritenuto Multiplayer Edizioni all'altezza e ha passato la palla a Mondadori. Beh, è anche comprensibile tutto sommato. Dai. Sì, per carità, anche se ripeto, il lavoro di Multiplayer è stato egregio. Sentire parlare bene me di Multiplayer ci vuole veramente moltissimo sforzo. Ci vuole il cuore. Appunto, il problema è che anche Mondadori, tra virgolette, non è andata bene, perché noi in Italia abbiamo il gruppo Panini che praticamente risponde a Disney, perché pubblica in Italia Marvel, pubblica in Italia Disney, pubblica da poco anche DC, che sono i concorrenti, e quindi Disney ha deciso di convogliare i diritti di Guerre Stellari in toto nelle mani della Panini. Difatti dal prossimo mese, che esce il secondo volume della nuova trilogia di Tron, tutti i libri di Guerre Stellari saranno pubblicati da Panini Comics. Bene. Tutti questi link chiaramente Puccio me li manderà a tempo 10 minuti e io li metterò poi con calma. Mio figlio addormentato in braccio appena mi no, si vabbè, con calma, mo tanto insomma pubblicherò stasera, stanotte, insomma, vediamo, insomma. E perché troverete ovviamente questa puntata in versione podcast sul nostro canale Spreaker, ovviamente poi ve li linkeremo su tutti i Telegram annessi e connessi, compresi i canali, comprese le pagine YouTube e gruppo YouTube. Ricordatevi che su YouTube c'è anche il gruppo Ludico Forum, dove potete venire a chiacchierare con noi se vi va, ma Facebook oramai non lo usa quasi più nessuno, e anche giustamente, giusto Waldi, tu lo usano usi. I vecchi faccia book, però No. Non particolarmente, no. È vero che schifo. Un po' schifo. Hai ragione, vabbè. Passiamo su TikTok. Dai, passiamo su TikTok. E anche TikTok pure un pochetto. Bene, ragazzi, scusate, ho sbagliato, mannaggia a me che poi sbaglio i pulsanti, sempre maledetti, tutti un po' infami, però ecco qua. Allora, i pulsanti, rivediamo di che cosa? I pulsanti del Nomix, che è un road. Che è un road che è apparso in... È apparso nella prima puntata di WandaVision. Che è della Disney. Che è anche... Star Wars. Per essere, esatto. Quindi, è tutto collegato. Tutto torna. È tutto collegato, hai ragione. Bene, Alex... Com'è? Io aspetto che finisca la stagione per farmi un mese... Disney per guardarmelo. Ma io e Marco ci siamo visti le prime due puntate. È guardabile. Allora, le prime due puntate noi ce lo siamo guardato, è un po' come guardare le serie televisive degli anni 50, 60 e 70. Dove vuole arrivare all'inizio un po' lo capisci, un po' no, diciamo così. È originale, molto originale, questo è un grande pregio. Dall'altra, boh, insomma, non so, è che non so dove vuole andare a insigare, insomma. Ecco, detto questo, poi... Non faccio spoiler, ma se hanno preso la trama dai fumetti di cui penso abbiano preso la trama, saranno cazzi estremamente amari. Per chi? Ma per tutti. Tu... per proprio tutto l'universo Marvel in generale. Ah, ok, no, pensavo che erano cazzi nostri, ci venivano a rompere i coglioni, ci venivano a menare. Sono anche cazzi tuoi sempre. Sono sì, sempre esatto, cazzi, quello cazzi. Sicuramente. I miei cazzi. Allora, Alex, con che chiuderesti? Qual è il tuo, la tua frase d'amore per Star Wars a questo punto? Dai, che è una cosa. La frase d'amore per Star Wars è ti amo, lo so. Lo so. I know. Ti amo, lo so. Vabbè, però quello non è Star Wars. No, scusate. Sì, Guerre Stellari, come no? Come no? Come? L'impero colpisce ancora. Ah, sì, non era. L'impero colpisce ancora. Cioè. Colpisce ancora. Ah, è vero, ti amo, lo so. Hai ragione, hai ragione. Battuta, tra l'altro, completamente improvvisata. Quindi. Ma poi lei risponde allo stesso modo nel ritorno dello Jedi, quando sì, stanno combattendo sulla luna di Endor. Che lei spara al tizio che stava per sparare ad Han. Han se ne accorge, la guarda e gli dice: ti amo. Lei sorride, lo so. Bello, bello. Beh, sì. La parità dei diritti, innanzitutto, anche nello spazio. I diritti sono importanti, soprattutto quelli televisivi e quelli cinematografici. Puccio, la tua frase d'amore per Star Wars: quando io non sarò l'ultimo dei Jedi, tu sarai. Mi sono fatto un sacco di pianti da bambino quando è morto Yoda. Applauso, solo per la citazione. Bravo, io avrei detto: guerra grande fatto, nessuno ama. Sì, anche bravo, bravo. E Marco? Guarda, no, allora, scusatemi, se proprio dobbiamo beccarci Yoda su Dagobah, per me è ragazzi, la nostra ultima speranza, no, ce n'è un'altra. È una di quelle cose che passa sotto traccia, ma poi quando la rivedi dopo un po' dici: minchia, ma aveva tirato fuori sta bomba e non me ne ero accorto quando l'ho visto le prime 50 volte. Che tra l'altro rischiava di essere Harrison Ford. No, seriamente, cioè ci avevano pensato, Harrison Ford li ha mandati a cagare. Vabbè, io l'avevo capito subito che era lei. Come? L'avevo capito subito che lei era la sorella. Io sono intelligente. La sorella. La sorella. La sorella, sì. Grande Alex, con questo insomma conclude questa puntata. Bella, è una puntata che in realtà non voleva essere né tecnica né storica né niente. Essere una bella chiacchierata sull'amore che uno ha per Star Wars. Affettiva. Esatto, bravo. Ed era un omaggio ad Alex che comunque alla fine in qualche maniera mi ha fatto, diciamo, con la sua insistenza, diciamo, tra virgolette, mi ha fatto un po' riamare Star Wars, dal quale mi ero allontanato. Quindi alla fine mi faceva piacere fare questa cosa qui. Detto questo, insomma, ragazzi, io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana. È una puntata dedicata al mondo nerd, al nerd come insulto storicamente, come veniva vista, insomma, la parola nerd, come venivano visti i nerd. E la settimana dopo ci sarà la stessa puntata, tipo questa, soltanto che su Indiana Jones. Quindi insomma ritorneremo a parlare sempre dell'universo Lucas. Per quanto riguarda Alex, lunedì sicuramente torna Tecnopills. Aspetta che mi devo dirti anche di cosa parliamo, perché se non sbaglio diciamo parlo di cose fighe. sì, in realtà rispondo a una domanda di un ascoltatore che: perché non fai questa app? E rispondo: no, perché non c'ho tempo, ma ovviamente impiego tipo 30 minuti per dirgli i motivi per cui questa cosa non si fa, però ci sono un sacco di musica elettronica. Ok, è bella puntata. È bello, è bello. E comunque ricordatevi che tra non molto ci sarà la puntata che Alex ha promesso a tutti e che oramai è stata datata, cioè c'ha una data, c'ha una deadline, quindi deve essere fatta per forza, perché sennò le canzoni ci sono, devo solo fare la raccolta delle... Differenziato. Sì, no, ma sono... Però se tu dici canzoni, poi dopo sveli di che cosa stiamo parlando. Insomma, è una puntata che abbiamo annunciato tante volte, che ci è stata chiesta tante volte e che c'era rimasta così in canna, che alla fine insomma è rimasta un po' così. Per quanto riguarda noi, questa sera, anzi questa notte, 23:30, Ludico Forum, scusatemi, Runtime by Night, io, Francesco, Umberto, Morris, non so se ci sarà anche Marco, si collegherà ovviamente da casa sua, insomma la solita chiacchierate notturne di Runtime by Night, che torna dopo due settimane d'assenza per ragioni canine, come sapete, insomma è stato praticamente impossibile riuscire a farla e speriamo che sia possibile farla invece adesso. E poi da lunedì in poi, insomma, domenica sera c'è Mono, Michele Paga, di De Paola alle ore 21, con una puntata che si intitola Zaino e Spalla, e poi insomma ricomincerà tutto quanto il palinsesto. Tutte le puntate che usciranno in podcast poi saranno ovviamente mandate a rotazione dalle 8 alle 14 e dalle 5 in poi anche sullo streaming di Runtime, quindi www.runtimeradio.it, dove siamo in questo momento anche in diretta. Quindi continuate a sostenere la radio, perché insomma è un progetto che stiamo cercando di far valorizzare. Anzi, la cosa bella è che nonostante sia una web radio partita da poco, noi praticamente già abbiamo quasi 12 ore di contenuti al giorno, e questo sarà troppo, è troppa roba, infatti la gente si abitua e poi dopo l'avonno dopo, esatto. Quello. Invece c'è un'ultima ora, ragazzi, c'è un'ultima ora, un ultimo giorno, secondo è abbastanza ufficiale, alle ultime veramente console sarà data la possibilità di far giocare il KOTOR 1 e KOTOR 2 in versione porting, quindi leggermente migliorato ovviamente rispetto a quelle che uscì 20 anni fa quasi. Esatto, però ci sarà questo porting leggermente migliorato, che è comunque separato da questo nuovo remake che vorrebbero fare, che sono due cose, due progetti separati. Quindi fra poco, entro l'anno, sarà disponibile KOTOR Knights of the Old Republic 1 e 2. Ok. Allora, detto questo, ragazzi, vi ricordo che adesso, come stacchiamo questa live praticamente insomma su www.runtimeradio, fino a questa sera alle 23:30 andranno praticamente a rotazioni varie cose, le speaker story, gli spot, insomma, cioè non è che c'è grosso contenuto perché chiaramente c'era questa diretta oggi, però alle 23:30 appunto ritorniamo in live sia su Spreaker che su www.runtimeradio.it con Runtime by Night. Detto questo, io saluto i miei amici che gli conviene staccare chiaramente, perché dopo la sigla finale c'è ovviamente il brano della settimana, che finalmente la settimana è finita, e che è un brano che abbiamo ripescato, perché in realtà non, nessuno ancora ci ha mandato insomma i nuovi brani, maledetti, dovete mandare i brani, se non vi interessa insomma fate come cazzo vi pare. Detto questo, grazie Marco Gualdi, prego, ciao, grazie Alex Raccuglia, grazie mille, ciao e buon weekend, e grazie Carmine Buccio Console, ciao a tutti, buonanotte. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.